Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Signori e signori, buonasera e ben sintonizzati sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Anche stasera staremo qui con voi un'oretta a farvi compagnia e così a farvi ascoltare qualcosa di simpatico, spero. Benissimo, allora salutiamo il partner mio, Antonio. Buonasera Gesi e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Per chi lo desidera, ricordiamo la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Questa sera abbiamo un amico nostro, personale, è un amico anche della radio, perché è venuto diverse volte e con piacere desidero salutarlo. Ciao Emilio. Ciao Emilio, buonasera. Ecco a noi il nostro Emilio Gallina, il nostro poeta. Carissimi amici, grazie. È sempre un piacere essere qui tra voi, ospite di Blu Radio Veneto. E sarà una serata un po' particolare questa, perché è, come si può dire, un po' originale, diremmo, esatto, perché in controtendenza, visto che siamo in tempo di carnevale, faremo una serie di meditazioni. Non spaventatevi, no, perché sono momenti che lo richiedono, che, anche. Sì, lo richiedono, ma mi riguardano personalmente, sì. Ma penso che poi in gran parte siamo tutti coinvolti, perché ci dimentichiamo che esiste anche, diremo così, qualcuno al di sopra di noi che ci vuol bene, che ci ama e che ci dimentichiamo noi di lui. Troppo spesso sì. Quindi grazie, ringrazio la radio, come dicevo prima, Blu Radio Veneto, dell'ospitalità e Eddie che ci conduce per mano fino alla fine. Bene, allora cominciamo con la prima canzone, che è interpretata da Claudio Villa ed è intitolata Non pensare a me. Non pensare a me. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi? C'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. Ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita Eccoci di nuovo in studio e naturalmente diamo la parola al nostro amico poeta Emilio. Emilio Gallina. Un cordiale saluto. E come dicevo, sarà un incontro un po', una serata un po' particolare, perché è di carattere, come dire, altamente spirituale. E inizierei con questa poesia che è intitolata Preghiera. È un breve ringraziamento per il giorno che ci viene dato. E un carissimo amico che si dice ateo, però dice: ogni mattina quando vi apro la finestra io ringrazio di essere ancora qua, di godermi il giorno. Quindi, preghiera. Questo giorno comunque ci lascia. Confido nel nuovo che ci attende domani. Al mattino il risveglio ci colga, Signore, attenti al tuo dono. Il miracolo di un nuovo giorno e nel quotidiano affanno del vivere, grati goderne. Bene, bella. Cedo la parola a Antonio, che leggerà affermativo. E affermativo è un ricordo di una visita fatta a San Francesco qui in Treviso, è un pomeriggio un po' invernale, e mentre ero così un po' in meditazione, diremo così, mi ha colpito: nell'altare centrale c'è un crocifisso sospeso e con delle lame di luce che lo illuminano, staccandolo proprio dal buio della chiesa. E è venuto questa, come dire, considerazione e meditazione. Praticamente ci si interroga a volte sui nostri destini, sui nostri, come dire, meriti effettivamente o demeriti, e chiedendo a volte anche un po' di perdono. Affermativo. Buia concavità absidale, una lama di luce stacca alta la croce e intorno tenebra. Ora sesta. Tu, pallore diafano, come d'alba prima sospeso nel vuoto, inchiodato a quel legno, croce nella croce, ora nona. Consummatum est, il crucifige è compiuto. Anch'io, Signore, con loro, chiudo gli occhi per non vedere il cenno del capo. Affermativo. Miserere mei, Domine, dicembre 2000. Grazie, Antonio. E continuiamo con questo berrò alle piogge nuove, perché credo che un po' tutti abbiamo necessità di un lavacro, che non è solo quello della doccia o del bagno, ma effettivamente di un lavacro interiore che ci permetta di vivere più serenamente e in contatto con Dio. Berrò alle piogge nuove. Berrò alle piogge nuove del bizzarro aprile, di gemmole ed erba sazio, sapide gocciole d'acqua. Berrò alle mie mani dischiuse a conchiglia. Docile, mi lascerò bagnare. Dai capelli, perle di pioggia scendere su viso, spalle, braccia e mani, purificante lavacro da uggioso tempo invernale. Nei giorni nuovi di resurrezione, sulla mia umanità ferita, stille d'amore e perdono copiose scenderanno. Sarò mondo. Bene, bella. E adesso facciamo un'altra tornata. Adesso c'è la Gesi che ci leggerà Che pietà scenda. Ecco, questa è una poesia che ho dedicato alle madri, praticamente, e alla loro ribellione contro l'umana, dice, pazzia della guerra, come dice il testo. E effettivamente questo loro protesta per i loro figli che vanno al macello. E quindi questo ribelle no che gridano al cielo. Si spera che qualcuno provveda e ritorni la pietà in forma di pace. Adesso Gesi gentilmente ci leggerà Che che pietà scenda. È una poesia che ho dedicato a tutte le madri per la loro protesta contro il sacrificio dei loro figli che vanno al macello, alla guerra. E questo grido di ogni madre praticamente va di protesta al cielo perché possa provvedere che questo non succeda più e che la pietà scenda sugli immani in forma di pace. Allora, Lesi, come dicevo, leggerà Che pietà scenda. Leggo sul volto tuo, madre, angoscia e ribellione per l'umana pazzia della guerra e l'intenso trepidare per i figli, vittime sacrificali di ogni conflitto. Angoscia e trepidazione sul tuo volto, madre, ribelle, il tuo no, muto grido innalzato al cielo con quello di tutte le madri di ogni tempo, di ogni paese, e fiduciosa preghiera perché su questi nostri giorni di smarrimento e odio pietà scenda su tutti gli umani in forma di pace. Grazie Gesi, grazie. E purtroppo è una realtà disgraziatamente non attuale, molto attuale, molto, purtroppo. Molto. Purtroppo. E Antonio adesso gentilmente leggerà Frammenti ritrovo. Anche questa è dedicata al, diciamo, Tempio di San Francesco al chiostro. Anche questo è quando passo da quelle parti e mi fermo, è sempre un momento di intimità interiore che mi carica sempre. Quindi ricordare questa presenza anche di Francesco a Treviso al suo tempo, mi è parso di fermarla così. E sentiamo Antonio. Mansuete penombre e misticità di silenzi è San Francesco in Treviso. Nel tremolio orante di ceri, frammenti ritrovo di serafica pace predicata al tempo dei lupi dal poverello, pellegrino per queste contrade. Dell'Umbria mi parla e di Assisi, la gotica spoglia navata, la nudità degli altari, le slanciate ogivali vetrate delle cappelle absidali, luminosi segmenti di luce a rischiarare penombre odoranti incenso e preghiere, e il chiostro inondato di luce e l'eco sommessa del salmodiar delle ore di frati e conversi nel fremito quieto della natura che canta con loro le lodi al Signore, ricorda di Assisi e il suo santo. San Francesco in Treviso, in misticità di silenzi e penombre, frammenti ritrovo di serafica pace. Il cuore si apre a confidente preghiera. È proprio bella. Così, effettivamente. Il Tempio di San Francesco, a differenza per esempio di San Nicolò, che è straordinariamente bella, San Francesco invece è straordinariamente raccolta e sì, ti invita di fare, francescana. È vero, proprio raccolto, molto bello. Ecco, adesso io mi cimento nella lettura Buon Seme, e questo è tratto da un brano del Vangelo quando parla che il seminatore uscì a seminare, e quindi mi sono raffigurato di essere semente, ma quale semente? Buon seme? Buona semente? Son io buon seme, Signore? Dove mi hai gettato la tua mano? Rovi e zizzania mi sono d'intorno, soffocano il mio sofferto credere. Fatico crescere e turgida non è la mia spiga, ma confido e spero. Nel tempo della mia ditura, Signore, vorrei essere spiga matura e i granuli mutati in farina feconda per un pane di carità e condivisione. E adesso mettiamo una canzone, un altro brano. Ci ascolteremo. Ecco, scusa Jerry, posso? Prego. Sì, questo lo dico io, ma c'è un po' di come dire, discrepanza tra questi testi e le canzoni, ma accettatele come questo momento di respiro, ecco, di cesura. Esatto, sì. Esatto. Il secondo brano in programma è cantato da Massimo Ranieri, Perdere l'amore. E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito. Eccoci di nuovo in studio col nostro poeta Emilio Gallina, del quale stiamo leggendo diverse poesie. A te la parola, Emilio. Grazie, Gesi. E adesso rientrerà Antonio con poesia Invidia. Questa è tratta da un brano sempre del Vangelo che parla dell'adultera che effettivamente viene perdonata dal Cristo. E infatti io onestamente la invidio, perché ha trovato veramente la comprensione e la pietà di chi tutto poteva, e quindi spero vi piaccia. Le sono perdonati i suoi peccati perché ha molto amato. Luca capitolo 7 versetti 13-50. Io peccatore, ingrato figlio al prodigo, invidio quella donna, la peccatrice. Vorrei anche per me le tue parole di perdono, Signore. Ho io amato in colma misura? Non sono che un bimbo alla disobbedienza pronto e ai capricci che attende il perdono della madre. come quella donna attendo il tuo Signore. Bella. Sì, è bella e effettivamente è vera, perché avremo tutti bisogno di questo perdono. Certo. A volte siamo troppo borriosi, troppo siamo, come dire, convinti di fare da soli, ed è il grosso errore che fa l'umanità di oggi. Purtroppo. Ecco, Antonio oggi poi continuerà la lettura, sempre con un'altra poesia dedicata a un brano del Vangelo, e questo è dedicato alla condanna dell'adultera, quando doveva essere lapidata, e il Cristo dice: chi non ha peccato scagli la prima pietra. Parole come pietre. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Giovanni capitolo 8, versetti 7-8. Molte volte tra le mani parole pietre pronte alla lapidazione. Pietre scagliate a finire a colpi di impietose parole, pesanti più che macigni, il fratello. Chi è senza peccato? Chi siamo per condannare? Supponenza e superbia, cibo quotidiano, ci ergono a giudici. Maldicenza e mormorazione sono pronte al labbro per abbattersi sul fratello. Scagli la prima pietra. Prima di scagliare parole e pietre, si levino dagli occhi pagliuzze e travi che offuscano vista e ragione, e dal cuore pietre di condanna. Vergogna e rossore al monito divino, pietà scenda sui lapidatori. 22 settembre 2011. È molto vera sta poesia. Direi proprio di sì. Proprio vera. E siamo sempre pronti a criticare, a mettere in cattiva luce i nostri, diremo così, tra virgolette, fratelli, perché per egoismo, per ignoranza, per invidia. Ma no, è così, è un'abitudine. È un combinato disposto micidiale. Sì. Certo, certo, certo. E quindi siamo... Come chiusa di questa seconda tornata, leggerò Fede in plume. È una riflessione che viene nata dall'osservare praticamente la tradizione nostra della candelora. E in casa abbiamo decisamente, almeno una volta si aveva sia la candela sia il ramoscello d'olivo. E guardando questi due segni ingialliti e secchi, mi è venuta questa riflessione. Ma a me piacerebbe sapere proprio l'etimologia di questa festa della candelora. È la festa della purificazione, quindi la benedizione della candela come segno di luce da portare a casa, effettivamente. Poi l'olivo invece viene benedetto la Domenica delle Palme. Sì. Quindi è sempre un segno di fede anche questo. Fede in plume. Nell'inoltrata stagione, rinsecchiti ramoscelli di olivo benedetto e una candela gobba e ingiallita mi rimproverano balbettio di antiche orazioni e una fede bambina. Crescerò? È una domanda che dovremmo farci un po' sì, tutti. Sì, questa, Beh, ma io penso che è importante. Che con l'andare del tempo si cresca anche religiosamente. E adesso Gesi gentilmente leggerà La Verna. Cioè, praticamente questo è un ricordo di quel straordinario luogo che siamo stati in viaggio di nozze la prima volta, e mi ha colpito talmente che mi è rimasto così. Sì, concordo, è straordinario. La Toscana è tutta straordinaria. Sì, però, ma questa come misticità è, direi, unica. Sì, è unica effettivamente. Beh, sì. E anche Umbria, legata alla Verna, perché sono la stessa Arezzo, cosa. Sì, esatto. E ho fermato questa diremo, questa poesia. Nel crudo sasso intratevere ed arno, selvatico sito, La Verna, romito luogo di silenzio e preghiera, dono, caro Francesco. Tra candelabri di faggi, abeti, vetusti, lo volle specchi profondi, solo in quel tempo di fiere e briganti. In desiderio del dolore, inginocchiato di croce, umile più che gli umili, in estatico abbandono d'amore, un dì di settembre, qui, prese l'ultimo sigillo e fu Cristo. Grazie Gesi, ed è stato proprio così, questo luogo si ricorda per, in particolare per questo momento, ed è carico di una spiritualità straordinaria. Antonio gentilmente leggerà come samaritano, e praticamente per fortuna di samaritani di questi tempi così disgraziati e così egoistici ce ne sono ancora molti, e questo è un dono prezioso che passa sotto silenzio, perché si parla sempre di tragedie, come di sempre, uccisioni, esatto, di guerre, di stupri, sì. di mariti che ammazzano le mogli, ma è una cosa veramente, è un bollettino di guerra continuo. Invece c'è tutta una realtà che io stimo importante, è importantissima, e sono queste persone, questi enti, queste associazioni che si dedicano agli altri, e effettivamente facendo tanto del con bene. Discrezione e senza clamore. Sì, esatto. Come samaritano, e ancora passa per le nostre contrade col dottore e il levita il samaritano, discreta, preziosa presenza di umana solidarietà. Nulla lui chiede, e si adopera e si batte per l'uomo che soffre, il fratello provato, il fratello scartato da indifferente egoismo. Si china amoroso sul male del mondo per dare conforto, per dare speranza, per lenire solitudini e angosce e donare umana amicizia. Nel nome dell'uomo sono tanti i samaritani novelli che nel loro donarsi hanno la gioia di dare senza ricambio. Fanno stupenda realtà questo loro momento di umana solidarietà. E va onore a questa gente. Decisamente. Va onore a questa gente, sì. E continuando, mando scusa perché qua la stagione invernale fa brutti scherzi. Ne fa tanti brutti scherzi. E questa è una domanda che mi sono fatto leggendo sempre il Vangelo, dove viene detto da Marco: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. Marco capitolo 8, 34 e 35 i versetti. Quindi, quale calvario? Rinnegarmi? Superbia mi guida, e ogni croce mi è greve, Signore. Le trovo ingiuste, le porto in sofferente e cattiva mormorazione. Nel tuo amore, quale croce per me, quale calvario, oh Signore? Nell'ora che si fa pesante il passo e lancinante dolore e fatica, non manchi un Cireneo. E di Cirenei penso che ne abbiamo tanti, e questo interrogativo effettivamente ce lo dovremmo fare. E niente, qui naturalmente passiamo al terzo brano in programma, che è Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, finalmente bere. Acqua azzurra, bada bada bada. Sono le quattro e mezza ormai, non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Eccoci di nuovo in studio col nostro Emilio Gallina, poeta trevigiano molto famoso. Jesi, pompa. È il marketing. Come si dice, pompa che te pago un'ombra. Pompa che te pago un'ombra, sì. Vabbè. Allora, continuiamo con la lettura delle poesie. Va bene, e allora do un incarico proprio a te, Jesi. Leggerai Gregoriano. E mi spiego subito il perché di questa poesia. Nelle nostre chiese adesso molta parte di accompagnamento alla celebrazione eucaristica abbiamo delle ottime chitarre. Sì. Sono ragazzi molto volonterosi, molto bravi, con canti che io chiamo canzonette, mi perdoneranno, per loro ci mettono impegno, però i nostri canti, parlo della mia generazione, sono andati perduti, non si cantano più in chiesa, se non raramente. Sono impegnativi proprio. Adesso sono, c'è la chitarra. Saranno impegnativi per i giovani, ma effettivamente erano straordinari. Non parleremo poi del Gregoriano, effettivamente è proprio, ogni inno è proprio è un inno al creatore, erano cose musicali straordinarie, almeno per me. Certo. E poi anche il ritmo romano che era bello, c'era la messa degli angeli che era bellissima. Sì, ma anche i vari inni, mamma mia, e sono veramente straordinari. Sì, adesso non si canta più, non si sente più. No, ma anche i canti, sia anche i canti mariani, c'erano di l'Ave Maristella, per esempio, non so se Antonio se la ricorda. No, ovviamente no, non perché sia particolarmente giovane, ma forse per altro. Ave Maristella, Deis mater alma, atque sempre virgo, e tantum ergo, antum ergo. Quando si andava i vesperi, guarda che era bellissimo, era bellissimo. Adesso li fanno i vesperi? No, si fanno i vesperi, ma non si danno anche la benedizione, ma è tutto un altro discorso. Non c'è profumo d'incenso, che lì infatti avevo scritto anche qualcosa per quei momenti che sono stati momenti importanti per di alta noi, elevazione. Sì, per noi ragazzi di allora. Sai, forse c'erano meno svaghi, distrazioni, meno svaghi, quindi si andava... Si andava a vespro il pomeriggio, vespro. Sì, specialmente nei paesi. Guarda, inciso, andiamo indietro di qualche anno, come ho conosciuto mia moglie, che, cioè chi è diventata mia moglie, è stata una domenica, ho bruciato vespero. Ai. E uscivo con la macchina da casa, quando... sento bussare sul vetro e c'erano due ragazze chinate che guardavano dentro e io ho passato il finestrino e mi dice una delle due, che era una carissima amica dove si abitava assieme da ragazzini, 30, dove va tu? 30. Tra me dice 30, cosa c'entra il 30? Il 30 era i primi due numeri della mia targa di macchina, avevano già patteggiato 30 e praticamente mi fa: dove vai? Domanda sciocca, stupida risposta, no? Dove che andevo e altri? E ora sono montati in macchina e sono andati su da Broto, perché allora Broto Cornuda era una meta abbastanza ambita. Sì. E da lì è cominciato lentamente tutto un discorso di avvicinamento, con i tempi di una volta, naturalmente. Coi tempi di una volta, sì, d'accordo. Sì, certo. Questo, l'amica. No? Questo per dire, chiedo scusa di questo. Certo, c'è un collegamento. Questo comunque. Collegamento. Sì. A te. 30 dove vado? 30 dove vado? No, simpatico, Sì. Avevano fatto tutto un lavorio tra loro, infatti ero ormai per loro, e anche per il gruppo che si è fatto, ero 30. Ecco, Jesse, gentilmente. Sì. Mi leggi Gregoriano. Allora, aspetta un attimo che lo trovo. Eccolo qua, Gregoriano. Melodia solenne di chiesa, canto, preghiera, al tempo mio e dei padri, ora di frati e conversi, altri strumenti stridono ora, fanno più laico il canto e la lode. Questo, come si diceva, è una cosa che per le generazioni passate ti rimane dentro, questo, cioè, non c'è niente da fare. Certo. E quindi è un discorso che, infatti, se almeno nella chiesa dove io vado, che è a Santa Bona, non c'è partecipazione della gente, se non in parte, perché sono tutte, diremo così, inni nuovi che non conosciamo. Non hanno attecchito ancora. Infatti c'è ogni tanto il celebrante dice di dare voce. E se non si conoscono i testi, è vero che ci sono i libri adesso con i canti. Ma a me succede, vado dietro così, cerco di arrampicarmi sugli specchi, perché... ce ne sono anche di carini. Sì, indubbiamente, non è tutto da scartare, per l'amore di Dio. No. Non vuole essere negazione di questa nuova realtà. Però per le vecchie generazioni si è cancellato. Certo, per esempio, certo. Una volta, quando durante l'intervallo della messa, magari nei momenti che non il prete faceva le sue cose suonavano spesso il preludio numero 9 di Bach, che era bellissimo, adesso non lo sento più. Mancano gli organisti, per cui sono... Adesso non lo sento proprio più, era bellissimo. Sostituiti da questi bravi ragazzi. Sì, che fanno quello che possono. Lo fanno anche bene, onestamente. Sì. Bene, continuiamo il nostro viaggio. Il nostro viaggio, sì. E Antonio ci leggerà Discernimento. Questo è un altro momento di un pensiero, di confronto, una meditazione che sì, mi è venuta, che ho fatto facendo il raffronto del famoso albero proibito che quando Dio creò Adamo ed Eva, li mise nel paradiso giardino, terrestre, sì. Ha proibito di toccare i frutti di quell'albero, con l'albero invece, l'albero di vita, che era la croce. Effettivamente, mentre dal primo si poteva gustare anche qualcosa di proibito, su questo secondo invece puoi gustare, se effettivamente ti accosti, qualcosa di veramente straordinario e che ti innalza il cuore praticamente e ti rende sereno e ti dà molta letizia. E quindi c'è questo raffronto tra male e bene, dove io saprò discernere e per vedere quale frutto avrò tra le mani. Sì. Discernimento. Dall'albero proibito, maestoso, suadente, ho staccato il frutto gustando fino in fondo il suo piacevole, ingannevole sapore di colpa. Dall'albero di vita, altro frutto ho colto, non bello alla vista, poco invitante, così scarnificato, piagato. Ho gustato il suo divino sapore intimamente. Non sazia brame umane, ma anima e cuore di serena letizia. Umano, divino, male, bene. Saprò discernere? Al momento stabilito, quale frutto avrò tra le mani? È una domanda, domanda che dovremmo farci, effettivamente. Sì. Eh sì. Perché, come dicevo prima, noi ci dimentichiamo di chi sta sopra di noi e vogliamo fare così di testa nostra, sempre sbagliando. Sì. E direi che un altro momento, direi che è abbastanza importante, per rientrare in un momento di condivisione, quando si va appunto alla messa, si va a questa agape, effettivamente si dovrebbe andare con una disponibilità diversa. A volte ci andiamo per abitudine, ci andiamo perché sì, così, ma senza forse quell'impegno che a fine poi della celebrazione dovremmo portare con noi. E tra le tante innovazioni che ci sono state dopo il concilio è stato inserito anche il famoso scambiarsi il segno di pace, cioè la stretta di mano. Sì, una volta non c'era quella stretta. No, non c'era, e farsi un augurio, capisci? Ed è un momento anche questo di molto importante, direi, che lo facciamo così, tanto per farlo. Scambiatevi un segno di pace. All'agape domenicale, un annuncio. Scambiatevi un segno di pace. Un semplice gesto, una stretta di mano, al labbro un sorriso e un augurio che spontaneo sgorga dal cuore. Pace a te. Segni di fede, segni di amore fraterno che trovano senso nel dono di sé e a chi ci sta intorno e ha bisogno di noi. È bella anche questa, molto, sì, molto semplice, vera, ma molto effettivamente sì. dovrebbe essere, diremo così, posta forse più attenzione nell'applicazione dopo, perché sì, in quel momento quello sì. Il punto. Dopo siamo sempre così, ci diamo la mano, più isolati, più soli. Appunto, c'è tanta solitudine oggi, nonostante tutta la gente che c'è. Così, sono tempi moderni, diremmo così. Una volta si radunavano nelle case, e si facevano facevano. Adesso invece ognuno ha la televisione. Ci chiudiamo in noi stessi, nello stesso condominio, dove c'è il condominio, o nel vicinato, spesso si è tante piccole isole. Piccole isole, perché non si sa l'uno degli altri. Come dici non tu per nella curiosità, tua poesia. Non per curiosità, proprio per una condivisione di momenti, sì, sì, di amicizia. Nella tua poesia condominio è proprio descritta Te la cosa. Ricordi? Sì. È meglio le tue poesie, ormai le so a memoria quasi. Grazie Jessy, grazie. Troppo buona. E ho imparato, e devo dirlo, che ho imparato a leggere il dialetto proprio per leggere le poesie di Emilio, perché altrimenti non avrei mai imparato a leggere il dialetto trevigiano, visto che io sono mantovana. Grazie Jessy, sì. Mi fa piacere anche questo, perché effettivamente il dialetto è tutto un altro discorso, anche se diremo così, parlato e scritto in maniera un po' decente, è veramente straordinario. Non quando ha niente da invidiare l'italiano, no, effettivamente. No. Quando hai scritto Scondicucco? In che anno? Non mi ricordo più. Nel 2000 e... nel 2004. Eh sì, mi ricordo che erano le prime. È stato Campana e Pardò, è uscito nel 2000-2002, è uscito a metà era Mesente, Mesente e Scondicucco nel 2004. Sì, sì, ci sono bellissime poesie proprio, ma tutte le tue, anche Campana e Pardò, Campane Pardoio è unico, sai, nonostante gli anni continua a spopolare. Ma veramente bello. Quello è stato dedicato a tua moglie, mi pare, no? Sì, beh, sono momenti semplici, momenti di vita coniugale, tra i più banali ai più intensi, effettivamente. È significativo. E che ha avuto mia moglie, purtroppo, dico purtroppo perché, come sapete, non ce l'ho più, ha avuto molte soddisfazioni, molti consensi per questa diremo così, condivisione di vita, direi, quotidiana, esatto, familiare. Ma la senti proprio in quelle poesie, proprio la tocchi con mano, la sapori proprio, questa condivisione. Grazie, Jerry. Veramente, e anche, proprio vedevo l'altro giorno scorrendo le mie poesie, questo resto di giorno. Questa è l'altra edizione, è uscita nel 2008. Sì, che è stata letta alla Sala Verde, mi pare. Sì, è stata presentata là. Anche quello è una bella, bellissima sillogia. Un'altra goderia raccolta. Però tutti hanno questo sapore di... Del tempo che passa, sì, Jerry, del tempo del che tempo passa, che effettivamente passa, sì. Inevitabilmente a una certa età vai nei ricordi, c'è poco da fare. D'altro canto, senza il ricordo, senza il passato, non costruisci il presente né programmi per il futuro, mi pare, esatto, sia questa l'aver letto da qualche parte. Quindi. Ma io lo dico sempre, perché tanto pensi al passato, non è vero, perché senza il passato non avremmo il presente di oggi. Certo. Quindi è assurdo dimenticare il passato, perché? Anzi... Va bene. Andiamo con la canzone? No, fermala. Adesso tu leggermente leggerai questa parola strambissima, crocifisso. Calma il sangue freddo, Jerry. Questa è nata da durante una premiazione al premio Istrana, che l'hanno fatto nella sala consiliare, e di fronte, alto nel muro, c'era questo povero Cristo spiaccicato sul muro, senza croce, proprio tacà sul muro, no? Sì. E mi ha colpito, e mi ha fatto, direi, qualche, direi, un po' di tenerezza, sì, mi avrebbe un po' fatto di tenerezza, sì. Ma è decisamente, dico, sono stato un momento scosso da questo, e ho fermato questo momento, sì. Sì. Cosa fai, Cristo piccolino, appeso su quel muro bianco, spogliato della croce? Vederti, le braccia appese come ali di gabbiano ferito, che fatica alzarsi nello slargo del cielo. Ho avuto un tuffo al cuore. Hanno risparmiato anche il legno della croce, forse, perché ti si noti meno. Vederti inchiodato su quel muro, in disparte, dimenticato, ho provato turbamento e, per me stesso, pena. Bella questa frase, spesso sì, anch'io ti inchiodo in qualche angolo del mio niente. Ed è proprio così, effettivamente. È proprio così. E... continuando la lettura, Antonio rileggerà Riflessione. E questa è una riflessione che ha fatto un mio amico che praticamente si è posto questa domanda nel riguardo del rispetto del settimo giorno, perché adesso praticamente negozi e supermercati, sì, adesso non c'è più niente. È tutto aperto, del settimo giorno se ne fregano tutti, proprio per questa vile moneta, diremo così, c'è solo mercimonio, c'è solo, diremo così, ansia di guadagnare sempre più, e va a scapito dell'uomo poi. E mi dicevo, questa riflessione che lui ha fatto, che praticamente sia la terra, i campi, e un po' la natura ha bisogno del riposo, e anche l'uomo avrebbe bisogno di questo riposo. Infatti, nella realizzazione dell'universo, del mondo, il settimo giorno il Dio riposò, è scritto. Invece noi l'abbiamo dimenticato. E quindi questa riflessione. Nel libro sacro è scritto: e il settimo giorno riposò. E tu, ateo professo, a dirmi: è bene che anche le vie, le piazze della città, il campo, la vigna, godano il riposo del settimo giorno, e l'uomo con loro. Mi pare più che giusto questo. Assolutamente. Che dovrebbe essere giusto, decisamente. Il settimo giorno si riposò, c'è una frase del Vangelo. Sì, è della Bibbia. Direi di continuare la lettura con questo dei giorni ti sono grato. È un breve pensiero di ringraziamento per questo nostro tempo che ci viene concesso e per questi giorni. Dei giorni ti sono grato. Dei giorni ti sono grato, Signore. Di essi mi accontento come chi di poco o nulla ha. Gusto lente briciole una ad una, sognando un pane intero. Bella. Ricordo, sì, questo resto un diciamo, pensiero breve, un buon ringraziamento per questi giorni, sì, come dicevo, che ci vengono concessi. Sì. Certamente. E noi passiamo all'ultimo brano musicale. È un doveroso ricordo di un giovane cantautore che se n'è andato troppo presto. Sì, Luigi Tenco. E naturalmente al Festival di Sanremo. Lontano, lontano. 66, questa qui. Lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza per cui tu mi prendevi un po' in giro. Di un mondo per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto. Eccoci di nuovo in studio e lasciamo ad Emilio l'introduzione dell'ultima poesia. Va bene Antonio, ti ringrazio. E questa che Antonio leggerà è una poesia dedicata ai luoghi del sacro, perché non bisogna dimenticare che abbiamo tanti momenti, come è stato la Verna, come abbiamo dei nostri luoghi qua a Treviso molto interessanti. E Antonio ci leggerà Santa Lucia delle Carceri, che è una chiesina effettivamente in piazza San Vito, che a volte passa inosservata, ma è piccolina ma straordinariamente bella e invitante alla preghiera. Celata gemma e preziosa, Santa Lucia delle Carceri in grembo a Treviso, mite austerità francescana accoglie chi vi sosta, e il tempo fermo pare ai giorni del Serafico e di Tommaso, cantore di Domenico e Orsola. In brevità di spazio e sopite voci e rumori, mistiche presenze accolgono il fedele. Tenui luminosità di anguste vetrate stemperano lungo basse pareti e il gotico antico, diminute volte a crociera ed esilità di colonne. Figure e storie di santi narrate a fresco da mani sapienti. Tutto diventa preghiera. Accosta all'altar di Lucia, in candore di marmo, la Madonna del Paveio e il bimbo suo proteso alla lata creatura. Dolce effigie accoglie materna, voti e preci. Bene, e qui, bella. È molto bella, bella, sì. E niente, noi non possiamo fare altro, stiamo così scorrendo gli ultimi secondi di questo nostro incontro. È sempre stato... Sempre la poesia mi dà queste sensazioni, di questi sentimenti di distillato di vita. E anche Emilio, mi sembra che tu abbia sempre fatto parte di questa... trasmissione, di questa direi, a volte direi sarà anche stufi di sentirmi. noi ti ringraziamo anzi così volevo dire questo, sì. Praticamente è stata forse una come dire, un incontro un po' proprio incontro tendenza quindi io vi ringrazio grazie a te Emilio, e alla prossima, no? Sì, esatto. Penso io piacendo. Grazie a tutti. Buon carnevale. Buon carnevale a tutti. E come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.